Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Probabilmente sono stato in guerra. Ho una cicatrice dietro l'orecchio, una macchia oblunga di carne sterile dove non crescono peli. Adesso è coperta e può essere nascosta anche dal più maldestro dei barbieri. Ma nessun barbiere può nascondere la cicatrice che ho sulla schiena. Per quella sarebbe più indicato un sarto. Quando mi specchio, mi viene restituita una faccia senza dubbio più bella dell'originale, ma il naso diritto, il mento scolpito e le guance perfette sono solo la testimonianza dell'arte di qualcun altro. Per quanto cerchi di convincermi che i capelli castani e gli occhi grigi siano sempre stati miei, non c'è niente di me che riesca a riconoscere, neanche l'età. Questo era l'incipit de La Costa dei Barbari di Norman Mailer. I don't wanna die.

Molto è già stato detto in questa seconda parte dell'ultimo volume della settimana, ma ancora non sono intervenuto io a dirvi nulla. Molto è già stato detto in termini di musiche, è stato detto in termini di film, in termini di letture, a partire dal film che è lo stesso della settimana scorsa, Persepolis, per arrivare a uno degli autori americani, statunitensi, di questa settimana, ovvero sia l'ultimo che sto leggendo, Norman Mailer, per poi concludere con la musica. Chiquita Violenta, che hanno aperto la seconda parte da Città del Messico, poi Girls da San Francisco e poi Quiet Village invece dall'Inghilterra, non mi ricordo il luogo, scusatemi, con una maggiore precisione. E si ritorna negli Stati Uniti, Giulio Cappardoni, che è arrivato quasi alla chiusura della penultima settimana di Eclettica, e ci torna con uno degli ultimi nomi nuovi che avrà l'occasione di farvi conoscere. Questo nome è quello di Meg Ashling, altrimenti componente della band di Minneapolis di nome The Gilded Age, però Meg Ashling che sta portando avanti anche una interessante carriera solista, interessante seppure è solo ai suoi inizi. Move Down the Line è il brano che io ho scelto. Nessuno poteva dormire. All'alba avrebbero calato in mare i mezzi d'assalto e una prima ondata di truppe, attraverso lo specchio d'acqua, sarebbe sbarcata e avrebbe dato battaglia sulla spiaggia di Anopopei. Sulla nave e in tutto il convoglio si sapeva che nel giro di poche ore qualcuno sarebbe morto. Un soldato se ne sta supino nella sua hamaca con gli occhi chiusi, ma è sveglio. Tutto intorno a sé, simile all'infrangersi della risacca, egli ode il mormorio degli uomini nel loro sonno agitato. Non lo farò, non lo farò! Grida qualcuno in sogno e il soldato apre gli occhi, li gira lentamente per la stiva e il suo sguardo si perde nell'intrico delle amache, dei corpi nudi e dei sacchi oscillanti. Questo era l'incipit de Il nudo e il morto di Norman Mailer. Yeah. Eclettica, ultima stagione, penultima settimana, volume numero 5, indice, Brendan Canning, TV Lumière, My Brightest Diamond, Jaguar Love, Chiquita Violenta, Girls, Quiet Village, Meg Ashling, Aloki. Prima di chiudere vi ricordo che settimana prossima Eclettica sarà in onda alle ore 20. Cari amici, il vostro programma è terminato. Eclettica. Vi diamo appuntamento Eclettica. A domani alla Eclettica. Stessa ora. Eclettica. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.